Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi abbiamo anche ampiamente raccontato, o meglio fatto ascoltare durante la diretta di questa mattina, per quello che riguarda l'Italia, ma in generale anche questa puntata, oggi ampio spazio all'Assemblea Annuale di Confindustria, l'ultima in cui è intervenuta Emma Marcegaglia come presidente. Mi riferisco chiaramente all'Assemblea Annuale. Marcegaglia resterà presidente per il prossimo anno, però quello che è l'appuntamento più importante per il mondo confindustriale, era presente tra l'altro mezzo governo, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, tutti gli esponenti dell'economia, della finanza, del mondo bancario. Dicevo, era questa l'ultima volta di Emma Marcegaglia in quanto presidente. Non sono mancati gli spunti, già vi abbiamo accennato nel corso del GR ai temi principali, due potremmo dire soprattutto, ossia da un lato la richiesta al mondo della politica, dopo un decennio definito perso, e già i titoli sono il decennio perduto nella crescita, ossia si è tornati indietro di 10 anni e soprattutto si sono persi 10 anni per mettere in piedi nuove riforme che potessero liberare energie in questo paese. Dicevo, dopo il decennio perduto, la crescita economica deve tornare al centro dell'agenda politica. Questo l'appello è ripetuto in più di un passaggio da parte della Presidente di Confindustria. Con la chiusura finale, gli imprenditori potrebbero altrimenti anche uscire dalle fabbriche e dalle loro imprese, pronti a battersi per l'Italia con tutta la loro passione. E qui c'è già chi ha voluto leggere una traccia politica in quest'ultimo passaggio. L'altro aspetto riguarda i rapporti interni. Dopo le indiscrezioni circolate ieri sera, smentita dalla Fiat, di una uscita della Fiat definitiva dalla Confindustria, un'ipotesi che comunque, nonostante la smentita del Lingotto, molti continuano a vedere come reale o realistica. Ebbene, c'è stato un passaggio a braccio di Emma Marcegaglia in cui ha voluto ricordare, senza citare mai esplicitamente la Fiat, che la Confindustria rappresenta 150.000 aziende, che non c'è più un periodo storico in cui le grandi imprese dettano la linea. La linea è quella di tutti gli associati, non esistono associati di serie A o di serie B. Il riferimento era chiaramente alle relazioni industriali e sindacali, al contratto nazionale, quello da cui è uscita per poi rientrare, adesso sembra per uscire di nuovo la Fiat. Questo per quello che riguarda l'apertura. Sentiremo anche alcune reazioni di chi era presente oggi all'Auditorium della Musica a Roma. E gli altri temi riguarderanno da un lato la giornata economico-finanziaria, che vede tutti gli indici deboli. Milano non fa molta eccezione, meno 0,97% Milano, meno 0,95% Francoforte, meno 0,46% Parigi e invariata Londra, che è la migliore in questo momento. L'America perde lo 0,50%. L'euro a quota 1,4091. Tra i titoli segnaliamo Azimut bene più 1,20, A2A più 0,70. Negativi invece oggi di nuovo tutti i bancari dopo il recupero di ieri: Popolare di Milano meno 3,45, Banco Popolare meno 3,15, Unicredit meno 3% e via così, Mediolanum meno 2,5 e ancora Intesa San Paolo meno 1,36%. L'altro tema, oltre alla borsa appunto e all'Assemblea di Confindustria, riguarderà il G8 che oggi si è aperto in Francia, a Deauville. I temi sullo sfondo riguardano anche l'energia e la sicurezza nucleare, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri sms e rapidamente le altre notizie in breve. E restiamo sui mercati. L'oro è salito $1,530 in Asia. E all'oncia, chiaramente in rialzo anche l'argento a $38,5, il petrolio invece in calo ma sopra i $100 al barile, $101. Dagli Stati Uniti arriva un dato, anzi una conferma sull'andamento del PIL americano nei primi 3 mesi dell'anno, più 1,8%, è una revisione rispetto alla prima stima, ed è inferiore comunque alle attese. Perché? Perché c'era chi si attendeva sostanzialmente che il PIL americano potesse essere rivisto verso il 2,2%, così non è stato. Ancora aumentano le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, 10.000 richieste in più nell'ultima settimana, contro attese di un calo delle richieste di disoccupazione, di sussidi di disoccupazione. La saga greca, c'è chi dice la tragedia greca, comunque anche oggi balletto ping pong di dichiarazioni: la Grecia non uscirà dall'euro, non è in discussione l'uscita della Grecia dall'euro, l'ha detto il commissario europeo alla pesca, la greca Maria Damanaki. È stato precisato poi dopo alcune dichiarazioni oggi che proprio sul sito del commissario europeo c'era stata una dichiarazione mal interpretata. La Damanaki avrebbe detto: se non riceviamo gli aiuti a questo punto usciremo dall'euro. Oggi l'ha smentita. E poi però il presidente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, ha sostenuto nel corso del vertice del G8 che non sono lì, l'Europa non è al vertice del G8 per prendere lezioni da nessuno, né per elaborare soluzioni in quel vertice per la Grecia. E poi ha aggiunto: faremo comunque di tutto per evitare il fallimento. Nel frattempo anche in Grecia, sull'esempio pacifico degli spagnoli, degli indignados spagnoli, migliaia di persone hanno manifestato in piazza contro il piano di austerità annunciato dal governo. E poi invece una dichiarazione importante, perché riguarda il nostro paese, da parte del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, che ha detto: l'Italia non rischia il contagio della crisi del debito. La vicenda Fincantieri, quindi ci spostiamo in Italia. Oggi, a margine dell'assemblea di Confindustria, il ministro allo sviluppo economico Paolo Romani ha dichiarato che senza un piano condiviso non vi saranno chiusure. Numero uno di Federmeccanica invece, Pierluigi Ceccardi, ha detto che il piano presentato da Fincantieri è molto duro ma è necessario. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, oggi ha stemperato un po' la polemica dopo l'appello di ieri, voleva i militari a Castellammare, ha detto: beh, per ora insomma, c'è lavoro, dalle parole di da quello che abbiamo capito, ha detto Bobbio, c'è lavoro fino al 2014. Questo in seguito alle due commesse della Carnival, confermate ieri e garantite anche da un'operazione della Cassa Depositi e Prestiti, 680 milioni di euro il valore complessivo. E poi il governo, gli enti locali della Sardegna, l'ENI e i sindacati della chimica hanno sottoscritto oggi a Palazzo Chigi il protocollo d'intesa per la chimica verde a Porto Torres. Questo dovrebbe favorire la riconversione industriale del sito petrolchimico di Porto Torres, che ha circa 2.000 lavoratori, compresi quelli dell'indotto. E poi ci sarà un investimento da parte di ENI di Novamont pari a 730 milioni di euro. Questo è tutto per le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito allora con il primo tema e anche quello principale della giornata. Come ogni anno, tra maggio e giugno ci sono le assemblee più importanti, diciamo, delle associazioni e comunque dei soggetti istituzionali. La Confindustria oggi, poi sarà a fine mese la volta della Banca d'Italia, le relazioni finali del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, le ultime di Mario Draghi anche in questo caso, perché poi andrà alla Banca Centrale Europea, poi sarà la volta dell'ABI, della Confcommercio, dell'ANIA. Insomma, tra maggio e giugno questo presenta il calendario. Ha aperto appunto i lavori l'assemblea di Confindustria, subito i temi: oltre 2.000 tra imprenditori, delegati chiaramente, ma anche banchieri e esponenti del governo. Per la prima volta anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, molto applaudito dalla platea, essendo anche l'anno dei 150 anni dell'Unità d'Italia, un lungo video ripercorreva questi 150 anni. Assenti giustificatissimi sia Silvio Berlusconi che Giulio Tremonti, appunto a Deauville per il G8. Allora parliamo di questa assemblea. Vi visto che poi avremo modo di sviscerare vari altri aspetti, oltre al lungo applauso all'ingresso di Giorgio Napolitano, oggi va ricordato anche un applauso un po' a sorpresa. Ve lo facciamo ascoltare subito. Quando Emma Marcegaglia, all'inizio del suo intervento, 38 cartelle, un'ora e 10 minuti circa, ha ricordato e ha voluto dedicare a Mario Draghi una particolare sottolineatura. Sentiamo. L'Unione Europea farà ancora meglio la sua parte grazie a un presidente della Banca Centrale Europea come Mario Draghi. È una scelta che deve rendere orgogliosa l'Italia intera e noi siamo orgogliosi. La Banca d'Italia ha sempre svolto un ruolo importante perché autorevole e indipendente. E questo per quello che riguarda gli applausi, gli interventi e i passaggi più applauditi. Adesso veniamo però alla sostanza. Dura. Potremmo titolare, intanto ringrazio per averci raggiunto negli studi di Radio 24 qui a Roma il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Alberto, buonasera. Buonasera a tutti voi. Dicevo, potremmo intitolare questo intervento, se avesse un titolo, Il decennio perso o perduto, perché è stato uno dei passaggi più spesso toccati dalla Presidente Confindustria. Ascoltiamo questo estratto. Il PIL italiano è aumentato del 45,2% negli anni 70, del 26,9% negli 80, del 17% nei 90, del 2,5% nell'ultimo decennio. Questa frenata è dovuta alla produttività, il cui incremento annuo è precipitato dal 2,8% negli anni 70 a zero nel passato decennio. Questa dinamica non ha paragoni negli altri paesi. Il PIL per abitante nel 2010 è ancora sotto i livelli del 1999. Rispetto alla media dell'area euro è passata dal 107% del 95 al 93,8% del 2011. È un arretramento che rischia di continuare. Allora, in termini di benessere, l'Italia ha già vissuto il suo decennio perduto. Ma noi non dobbiamo rassegnarci a questo. Noi dobbiamo muoverci in fretta. Non possiamo più credere di avere davanti a noi tempi lunghissimi con cui in passato abbiamo affrontato ciò che impediva lo sviluppo, come avvenne negli anni 70 e 80 sulla scala mobile o negli anni 80 e 90 con le pensioni. Il tempo è un fattore discriminante. Temporeggiare o muoversi a piccoli passi è un lusso che non possiamo più permetterci. I concorrenti non stanno certo lì a guardare e le speranze dei giovani non aspettano. Poi arriveremo, Alberto, anche al passaggio sulla delusione, sulle proposte e anche sulla parte finale, quella che potrà essere forse interpretata domani come l'elemento più politico. Però partiamo dall'analisi, un'analisi molto secca, molto cruda. Abbiamo fatto ascoltare un passaggio che non si sofferma sull'ultimo anno, che non va, diciamo, in polemica o in critica sugli ultimi mesi, ma appunto parla di un decennio perso. Sì, è il dato che fotografa meglio la malattia cronica dell'Italia, che è quella della mancata crescita. La mancata crescita, lo ha detto il Presidente Marcegaglia, è un problema di produttività. Produttività vuol dire adeguare le regole del lavoro alle esigenze della competizione globale, vuol dire fare investimenti mirati, vuol dire fare upgrading tecnologico dei propri business, perché altrimenti quello che si commercia diventa obsoleto e viene battuto da concorrenti che nel mondo sono agguerritissimi. Vuol dire far crescere un paese negli propri standard di ricerca, di istruzione, di formazione, quindi nella qualità del proprio capitale umano. Tutto questo non è stato fatto. L'Italia ha perso tempo, l'Italia si è impantanata in una specie di depressione collettiva. Ecco, devo dire che questo tema dei 10 anni è un tema che per prima tirò fuori la Banca d'Italia, cioè come potere d'acquisto e reddito prodotto da ogni italiano, cioè che si è tornati ai livelli di inizio millennio, per dirla. Ed è un tema che a questo punto, dopo le prime reazioni un po' anche da parte del governo, un po' scettiche, è stato così digerito che oggi non abbiamo visto reazioni particolarmente forti da parte dei ministri. È come se si desse per acquisito che in effetti questo paese, lo scopriamo così un po' all'improvviso grazie alla Banca d'Italia, è tornato a inizio 2000. Sì, esatto, la base di partenza da cui appunto riorganizzare lo slancio che diventa inevitabile, che, su cui tutti noi, tutti i cittadini italiani devono concentrare le proprie energie, è arretrato. Questo ormai è un dato assodato. Recentemente è stata fatta una polemica forte fra il governo e l'Istat che ha censito, diciamo così, una quota di popolazione che si è impoverita, dati alla mano. Poi quale sia esattamente la quota poi è discutibile, quale sia la metodologia con cui calcolarla pure. Però è un indicatore, ed è un altro indicatore che è venuto fuori ieri dalla convention dell'INPS, che una persona su tre oggi è pensionata e metà delle pensioni sono sotto 500 euro. Questo sì. È il paese. E domani avremo ospite, come avevo già anticipato, anche chi, guidando un gruppo come Coino, VS e UPI, mi riferisco a Stefano Beraldo, per inciso ci racconterà che cosa vedono loro sui consumi. Ne ascolteremo delle belle, perché ieri c'era anche un dato sulle vendite al dettaglio molto molto preoccupante, quanto a calo anche nella grande distribuzione e soprattutto nei generi alimentari. Quindi piantiamola per favore con la favola di Madama Marchesa, va tutto bene. Mi sembra che tutti stiano digerendo questo aspetto. Veniamo alla parte invece in cui Emma Marcegaglia si è rivolta a che cosa chiedono, alle proposte. Non sono richieste, ha detto lei, sono proposte, perché riguardano tutti, e al mancato ascolto, alla mancata rispondenza. La questione della bassa crescita è nazionale e generale. Tutti gli organismi internazionali concordano che l'Italia ha bisogno di un incisivo programma di riforme strutturali per aumentare il potenziale della sua crescita. I fondamentali sono le liberalizzazioni e la riforma della pubblica amministrazione. Noi questo lo diciamo da sempre. In Italia c'è bisogno di più mercato, ancora poco presente o del tutto assente in troppi settori della vita economica. Le liberalizzazioni mancate continuano a penalizzare il Paese. Secondo la Banca d'Italia, una decisa politica di liberalizzazione nei settori meno esposti alla concorrenza potrebbe generare un aumento del PIL dell'11% e dei salari reali di quasi il 12% nel medio e lungo termine. Ma sta succedendo il contrario. Il Governo ancora non ha presentato la legge sulla concorrenza che andava varata l'anno scorso. Ed è in atto un'allarmante corsa in Parlamento per ripristinare barriere all'ingresso e tariffe minime per i servizi professionali e per i trasportatori. Noi lo diciamo sempre, siamo stanchi che ci sia una parte del Paese esposta alla concorrenza e una parte del Paese invece che sia protetta e che scarica i costi su di noi. L'altro punto, l'inefficienza della burocrazia è un grave impedimento alla crescita. L'amministrazione pubblica interviene sistematicamente nell'ostacolare la vita delle imprese, rende quasi impossibile ottenere in tempi certi autorizzazioni e licenze, grava le imprese di 1000 adempimenti inutili e costosi. L'anno scorso alla nostra Assemblea noi abbiamo avanzato molte proposte per rimuovere gli ostacoli che ritardano la crescita e la produttività italiana. Il più di quelle proposte resta valido. Tuttavia esse non hanno riscosso l'attenzione della politica, sempre pronta a lamentarsi di non ricevere proposte concrete. La verità è che l'agenda nazionale non riesce a fare della crescita il suo primo argomento all'ordine del giorno, perché la politica pensa ad altro. È da 3 anni che noi non ci stanchiamo di avanzare proposte. Proposte, non richieste. Le richieste vengono fatte da un sindacato di categoria, le proposte sono nell'interesse del Paese. E beh, qui ci addentriamo, Alberto Arioli, nel tema più politico, di dialettica tra governo e rappresentanza degli industriali. Voi, tra l'altro, come Sole 24 Ore avete compiuto un'inchiesta sui motivi per cui l'Italia non cresce, che tra l'altro ricordo è anche un libro in edicola tutto il mese, che si può comprare, una bellissima inchiesta, abbiamo avuto Fabrizio Galimberti a raccontarcela all'inizio, fatta di varie voci, di riforme sostanzialmente possibili a costo zero. Mi sembra di poter leggere in questo intervento, in questo passaggio della Marcegaglia, l'accusa che non sono state fatte riforme che non andavano a toccare i conti pubblici, non andavano quindi a far spendere di più lo Stato, liberalizzazioni, burocrazia che avrebbero generato PIL, l'11%, 12% dice la Banca d'Italia, a costo zero. Questo perché non era interesse della politica la crescita economica. Esattamente così, nella nostra carrellata, in questa inchiesta più puntate sul perché l'Italia non cresce, abbiamo sottolineato uno a uno tutti i punti che fanno parte delle distorsioni del meccanismo competitivo italiano, e molti obiettivamente sono responsabilità dell'attore pubblico, di chi ha le leve della politica economica. Se oggi ci vogliono 1520 giorni per poter avere la certezza di riscuotere un assegno che il tuo committente non ti ha pagato, contro i 200 in Francia e ancora meno in Germania. È chiaro che questo diventa un gap competitivo enorme per chi vuole fare investimenti in Italia. E questo è un problema di giustizia civile, cosa che non è mai stata affrontata in questo termine. Se i 4/5, come diceva oggi il Presidente Marcegaglia, delle utilities, le società pubbliche comunali che si occupano di nettezza urbana, trasporto pubblico locale e quant'altro, sono in fallimento, in perdita, hanno gemmato subholding che sono nient'altro che dei luoghi dove creare dei consigli di amministrazione, è chiaro che quella è una distorsione strutturale del Paese. Se queste diventassero società più o meno private, cedute al mercato e si creasse un mercato vero, probabilmente si creerebbe energia positiva, pubblica, profitti, lavoro e efficienza e mercato. Tutte queste cose non sono state fatte, sono cose a costo zero. La principale è stata fatta un embrione, è stata lodata varie volte la riforma dell'università. La principale riforma per un sistema paese bloccato come il nostro sarebbe quella di investire nel capitale umano. E quello è l'investimento principale, e tendenzialmente a costo zero o a parità di costo o leggermente superiore, ma insomma non è una cosa che richiede un enorme sborso di spesa pubblica. Invece, per rimanere a spesa pubblica, non è sensato utilizzare il meccanismo del taglio orizzontale, che è andato a colpire soprattutto la spesa in conto capitale, cioè quella per gli investimenti, che ha ceduto quasi 16 punti, mentre quella corrente poco meno di 2. Cioè è andato a tagliare gli investimenti, che sono quelli che poi generano PIL e ricchezza, e ha tagliato pochissimo le spese le spese correnti, che poi sono spese per stipendi, consulenze. Chiaro. E quant'altro, e sappiamo cosa si nasconde dietro questa critica, la esplicito, cioè, mentre la consulenza dà poi un ritorno politico, elettorale, l'investimento, essendo un investimento, non dà un ritorno politico ed elettorale subito, immediato, però dà un ritorno al paese quanto a crescita economica. Devo dire che, come avete sentito, Emma Marcegaglia si riferiva alla politica in generale, non solamente al governo, certo. Cioè una politica che è distratta su altri temi rispetto alla crescita economica. Dopo il meteo e la pubblicità, l'ultimo passaggio dell'intervento di Marcegaglia, quello che, ripeto, conoscendo anche un po' i miei colleghi, domani farà forse più titolo, ed è il passaggio finale della relazione. C'è chi, possiamo tranquillamente anticiparlo, vorrà leggerlo come un manifesto politico. A noi è sembrato invece più in linea con tutto il ragionamento fatto prima. Comunque ne parliamo dopo il metro, la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Stiamo commentando l'ultima relazione di Emma Marcegaglia come presidente all'Assemblea Annuale di Confindustria, con Alberto Arioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Dicevamo la chiusa, come si chiama in linguaggio giornalistico, delle 38 pagine del suo intervento, è quella che domani probabilmente lascerà più margini di interpretazione, ma anche questa, insomma, fa parte del giornalismo. Ascoltiamola, perché dopo quello che abbiamo appena sentito, invece a noi è sembrata un po' più in linea, una chiusura chiosa di quanto già ricordato. Se il risultato elettorale finale convincerà governo e maggioranza di avere davanti a sé ancora 2 anni di lavoro, la loro agenda deve concentrarsi su un'unica priorità, la crescita. Questo significa semplificazione e liberalizzazione subito, infrastrutture subito, riforma fiscale subito. Queste sono le nostre richieste. Ma al di là del voto amministrativo, ci sono 3 considerazioni di fondo che orientano le nostre convinzioni, il nostro agire, il nostro giudizio. Primo, il decennio perduto alle nostre spalle in termini di minore competitività e mancata crescita viene da divisioni e lacerazioni interne a ciascuno dei 2 poli della politica, alle prese con fratture e problemi di leadership personali anteposti al benessere del Paese. Noi non vogliamo più questa alta conflittualità all'interno degli schieramenti e tra gli schieramenti. Secondo, ora che le difficoltà della maggioranza sono evidenti nel giudizio popolare, non per questo possiamo tacere che l'opposizione, tra spinte antagoniste e frammentazione, è ancora incapace di esprimere un disegno riformista. Noi invece speriamo che questo possa accadere. Terzo, un avviso finale. Come imprenditori, noi facciamo a testa bassa e maniche rimboccate il nostro mestiere. Ma attenti. Diceva Max Weber: vengono talora momenti tanto gravi nella vita di una nazione in cui la testimonianza pubblica di chi vive di integrità privata non è più un diritto civile, ma un vero e proprio dovere morale. Io davvero non ho dubbi. Nei momenti difficili della vita del Paese di grande discontinuità, noi imprese italiane, noi Confindustria, siamo stati pronti non solo a tutelare le imprese, ma a batterci con tutte le forze per gli interessi generali del Paese. Allora, in un momento così, noi saremo pronti a batterci per l'Italia, anche fuori dalle nostre imprese, con tutta la nostra energia, con tutta la nostra passione, con tutto il nostro coraggio. Viva l'industria, viva il lavoro italiano, viva l'Italia! Allora, Alberto Rioli, chiaramente qui non si può girare come si vuole, ma questo è il passaggio più politico, intanto perché è rivolto alla politica in maniera molto forte, ora che le difficoltà del governo, della maggioranza sono evidenti, il riferimento è alle amministrative, stia attenta anche l'opposizione perché non vediamo ancora emergere un disegno riformista. Ma poi l'avviso finale, l'ha chiamato avviso finale, attenti che non tanto la nostra pazienza sta per finire, ma che sentiamo più che un diritto, un dovere dell'imprenditore a un certo momento, se non riceveremo risposte, uscire dalle imprese e mettere passione e coraggio per l'elezione del Paese. Sì, non è ancora possibile, credo, definire questo come un annuncio di certo. Discesa in politica, questo è evidente. Mi sembra faccia molto parte della struttura retorica, laddove retorica è detto in modo positivo, di un discorso all'Assemblea di Confindustria, soprattutto l'ultimo che chiude un mandato. È evidente che, però, come lo vogliamo chiamare, un avviso di garanzia pubblica, per così dire, di interesse pubblico, nel senso che tante volte le parti sociali hanno svolto una supplenza preziosissima nel corso di questa nostra ultima travagliatissima vita politico-istituzionale in varie forme. Con gli accordi, con cose che poi si sono tradotte in forme legislative, con facendosi carico anche di tematiche che non erano propriamente nelle loro corde primarie, diciamo così. Penso soprattutto agli accordi del 92-93, che sono quelli, certo, che hanno segnato la grande svolta della parte finale del secolo scorso nella politica economica nel nostro paese, e lo hanno salvato effettivamente. Quindi, come dire, è anche nelle corde di chi si è così appassionatamente interessato e con grande energia ai temi delle politiche pubbliche del Paese chiudere il proprio intervento con un appello di questo genere. Se poi questo diventerà una chiamata, diciamo così, all'elettorato, lo vedremo. Non credo, però, per la verità. Beh, sì, io sono molto d'accordo con te. Intanto domani a Treviso, ce ne occuperemo domani, vi è una manifestazione di 3.000 imprenditori che ricorda paurosamente quanto avvenne, qualcuno di voi se lo ricorderà, a fine anni 90, quando gli imprenditori portarono le chiavi delle loro imprese al Ministero delle Finanze perché non riuscivano ad andare avanti. La protesta è su altro, sulla vessazione fiscale, sulla burocrazia, però insomma tornare a vedere gli imprenditori trevisani in questo caso a marciare è un segnale che andrebbe seguito con moltissima attenzione da parte della politica. A me è sembrata personalmente anche la finale, come ricordavi tu, considerazione di una presidente che è al suo ultimo intervento in assemblea pubblica e dice in qualche modo palesa anche tutta la sua frustrazione. Come dicevi, era l'ultimo passaggio di 38 pagine in cui il tema della politica non ci ha ascoltato, la crescita economica non è al centro dell'interesse dell'agenda politica, le riforme sono state fatte alcune e anche elogiate, quelle universitarie, ma poche, troppo poche, altre sono rimaste nel cassetto. Insomma, l'appello di dire attenzione a governo e opposizione, che o vi rimettete a guidare il paese secondo quelle che sono le esigenze del paese, cioè tornare a crescere, aumentare l'occupazione, ritornare a produrre reddito e quindi risparmi e quindi potere d'acquisto, se continuate a battibeccare tra di voi e al vostro interno concorrenti e correntine, la pazienza in generale potrebbe anche finire e l'imprenditore ha il dovere a questo punto di occuparsi del destino del paese. Ultimo passaggio, che ho lasciato volutamente per ultimo, è quello che riguarda invece una dinamica un po' più interna con Confindustria, il rapporto con la Fiat. Inimmaginabile 10 anni fa una Fiat che fosse uscita da Confindustria, già è successo ai tempi di Federmeccanica per gli accordi di Pomigliano e da Pomigliano poi e anche per gli altri accordi della Fiat e adesso oggi sui giornali alcune indiscrezioni che Marchionne è pronto a uscire da Confindustria di nuovo. Su questo c'è stato un passaggio a braccio, fuori dal testo, però molto netto e molto duro, sentiamo. Ho avuto e ho la responsabilità di guidare la Confindustria in questi anni drammatici che io penso forse sono tra i più difficili degli ultimi decenni. Io ho chiara in mente un'azione riformatrice che va portata avanti, che abbiamo portato avanti, che continueremo a portare avanti anche nelle relazioni sindacali. Conosco molto bene le regole della competizione internazionale, perché l'azienda della mia famiglia vive di mercato globale, non ha mai preso un euro di aiuti ed incentivi come la stragrande maggioranza di imprese presenti qua in questa sala. Allora, io sento il dovere di rappresentare tutti i 150.000 iscritti a Confindustria, piccoli, medi, grandi. Per me sono tutti uguali. Non esistono soci di serie A e non esistono soci di serie B. Noi non agiamo sotto pressione di nessuno, noi non pieghiamo le regole che vuole la maggioranza per l'esigenza di un singolo. Certo, noi siamo pronti ad andare più avanti, l'ho detto, l'ho dichiarato, continueremo a modernizzare il sistema delle relazioni sindacali, ma voglio anche ricordare che questa nostra Confindustria in questi 3 anni ha fatto sulle regole sindacali molto più di quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni. Ma senza strappi... ma senza strappi improvvisi che fanno male al sistema delle imprese e al paese. Insomma, non ha mai detto Fiat, ma era palese a tutti. E il messaggio è un po' questo, insomma, le relazioni industriali, cioè i rapporti sindacali, i contratti nazionali, quello di primo livello, quello di secondo livello, vengono determinati nell'interesse di tutte le aziende, nel caso della meccanica, di tutte le aziende di Federmeccanica, non solo della Fiat. Cioè non è più il tempo... per ciò che è bene per la Fiat e bene per il resto d'Italia, Alberto. Sì, questo sicuramente è il titolo, diciamo così, di questo passaggio, non c'è dubbio. Forse è la prima volta che accade in modo così netto, sì, che l'Associazione degli Industriali prenda le distanze in modo così evidente. E appunto la Marcegaglia ha tenuto a dire che io rappresento tutti, dal più piccolo al medio al grande. Quindi ha messo, diciamo, sapendo che ciascuno di voi conta nello stesso modo per me. Ed è giusto che sia così, perché un'associazione non può che agire in questo modo. Lo strappo di Marchionne fa parte, io credo, del suo modo di gestire le cose della sua azienda, su tutti i vari fronti che lo riguardano. Chiaramente è un uomo che ha avuto una strategia di grande successo. Essere un imprenditore italiano che viene lodato più volte pubblicamente da Obama non è una cosa da poco, e credo che possa anche creare, come dire, effettivamente una impalcatura psicologica che fa pensare di avere effettivamente ragione. Detto questo, un conto sono gli Stati Uniti, un conto è l'Italia. Il valore della coesione sociale in Italia è stata una cosa fondamentale, ha salvato il paese, lo dicevo prima, consentendo provvedimenti di politica economica molto duri, ma ha salvato il paese anche nei momenti durissimi del quando terrorismo. Degenerava la politica e c'era il terrorismo. Quindi non è una cosa che si può abbandonare, fa parte della nostra storia, fa parte dei nostri ricordi, del nostro futuro, io credo. Quindi ha ragione la Presidente Martegaglia a difendere l'accordo del 2009, che è un accordo importantissimo, che ha creato le basi per quello fare quello che la CGIL non ha firmato, tra l'altro. Esatto, relazioni industriali come hanno i tedeschi. Uno oggi può fare un accordo aziendale in sostituzione di un contratto nazionale o parte di esso, ed è esattamente quello che ha consentito ai tedeschi di adattare in modo flessibile le regole che presidiano il salario del proprio maestranze. Sì, è stato un appello, un ricordare alla Fiat che la Confindustria non rappresenta solo la Fiat e che ogni testa ha un voto, potremmo dire, non a seconda di quanto pesi, anche per mettere le mani avanti, perché le indiscrezioni inutili che ci giriamo attorno sono di una Fiat che vuole uscire da Confindustria, e se dovesse arrivare una sentenza negativa dei tribunali su Pomigliano potrebbe prendere questo per dire: attenzione, a questo punto il piano Fabbrica Italia, i miliardi previsti come investimento non possono più essere realizzati in questo paese. Cioè, se Marchionne vuole fare la scelta, diciamo, americana, è chiaro che la Marcegaglia gli ha ricordato che lei rappresenta tutti e non solo la Fiat. Poi vedremo, perché su questo è chiaro che anche noi sono giunte molte indiscrezioni di una possibile uscita della Fiat dalla Confindustria da metà giugno in poi. Staremo a vedere, perché poi l'unica cosa ufficiale è la smentita del Lingotto arrivata ieri in tarda serata. Io ringrazio Alberto Arioli, che lascio andare alla riunione del Sole 24 Ore. Grazie a voi. O ciò che ne resta, visto che ti ho rubato buona parte di essa. Il traffico, poi parliamo di borsa e poi sentiamo anche alcune delle reazioni all'intervento di Emma Marcegaglia. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso la parentesi di borsa, non è una pausa, anzi, E poi torniamo ad ascoltare alcune reazioni di vari amministratori delegati, vari politici all'intervento, all'ultimo intervento dell'Assemblea Pubblica di Marcegaglia, e poi un collegamento con Deauville per il G8. Vediamo di farci stare dentro tutto, quindi la borsa. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, meno 0,71% Milano, meno 0,30 Parigi, meno 0,80 Francoforte, e Londra la migliore, più 0,18%, l'America perde ancora uno 0,3%. Raccontavamo in apertura del programma i dati americani non belli sul PIL e sui disoccupati, di nuovo però in flessione oggi le banche, Livia. Sì, allora le banche in realtà oggi sono state colpite dai realizzi. Ieri avevano chiuso in rialzo, Intesa aveva guadagnato circa il 5% e stamattina comunque viaggiavano in rialzo, ma bisogna dire che stamattina le borse avevano aperto in territorio positivo, quindi poi nel pomeriggio sono peggiorate ulteriormente e quindi hanno chiuso con forti ribassi. La peggiore sul comparto principale è stata la Banca Popolare di Milano, che ha ceduto il 3% circa, seguita dal Banco Popolare a meno 2,9%. Sì, di nuovo realizzi, si veniva da una corsa ieri, però da un calo nei primi giorni. Ancora tra i titoli abbiamo visto andare bene oggi Azimut più 1,30%, ma anche Terna e Tenaris e Pirelli a questo punto. Sì, allora per quanto riguarda Terna, Tenaris e anche Saipem, oggi bisogna dire che sono andati bene i titoli legati alle materie prime e agli energetici, con un petrolio che ora è colpito dai realizzi e quota sui $100 al barile, ma ieri si era attestato sopra $101, che è il livello più o meno che non raggiungeva da due settimane. Per quanto riguarda in particolare Tenaris, allora secondo gli operatori gli investitori potrebbero iniziare ad approfittare della recente debolezza del titolo, perché facendo alcuni calcoli, allora da inizio anno Tenaris ha fatto peggio della concorrente francese Vallourec di circa il 14%, Tenaris ha infatti ceduto il 9,5% circa e la concorrente francese invece ha guadagnato il 5,3%, quindi potrebbe essere l'occasione per colmare questo divario, secondo gli operatori, grazie anche alla risalita dei prezzi del petrolio, di cui comunque beneficerebbero sia la società italiana sia la concorrente francese. Edison, e qui entriamo a parlare, tocca parlare di amministrative e quindi del ballottaggio di domenica. Perché su Edison? Allora, per quanto riguarda Edison, allora, il titolo ha guadagnato oltre il 3%. Allora, in realtà le azioni avevano beneficiato già delle dichiarazioni del numero uno di EDOF. Sì, di due giorni fa, certo. Infatti. E invece oggi, nel dettaglio, ci sono anche le attese sul ballottaggio, in quanto comunque Edison vede tra gli azionisti A2A. Ma per quanto riguarda in particolare le scommesse del mercato, il mercato scommette su una possibile offerta pubblica d'acquisto sulla società come soluzione proprio in vista del riassetto, e come cifra viene dato un prezzo intorno a 1,1 euro. Sì, lì bisogna capire però, perché siccome appunto i due soci forti sono i francesi DDF e A2A, che unisce le municipalizzate di Milano e Brescia, è chiaro che se però poi questi non vendono, tu puoi lanciare tutta l'opa che vuoi, ma se non ti consegno i titoli blocco la situazione. Ecco perché le amministrative entrano in gioco, perché si vuole capire anche cosa succederà lunedì alle 15:01. Vi anticipo che vi sarà un lungo speciale di Radio 24 su questo. Ancora andiamo avanti tra i titoli minori. Arena molto forte oggi, quasi 4% di rialzo. Sì, allora il titolo ha beneficiato del fatto che la società sta mettendo a punto, comunque ha messo a punto i primi step per quanto riguarda il piano di ristrutturazione aziendale. La società ha infatti comunicato di aver siglato un accordo di investimento con Logint, che sottoscriverà un aumento di capitale da 10 milioni attraverso una compensazione dei crediti. Questo comunque è il primo passo, perché la stessa Logint, quindi la società, avrà la facoltà di procedere ad un altro aumento di capitale entro la fine del 2012. Questo si aggiunge quindi a un'altra serie di notizie positive arrivate sul titolo nei giorni scorsi, e quindi le azioni ne continuano a beneficiare. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Vi ricordo che il peggior titolo invece oggi è stato Archimedica, meno 4,70, Cape List Investment, meno 5,16, titoli molto sottili. E Casa Damiani meno 3,80%, bene anche la Tesmec più 16,30 e la TAS più 6,70%. Dopo il GR torneremo a parlare delle reazioni all'intervento di Emanuele Ceccaglia in assemblea pubblica di Confindustria oggi, ma anche di alcune dichiarazioni del ministro Romani in merito alla vicenda Fincantieri. 349-238-6666 per i vostri sms e poi ovviamente anche il collegamento con il G8 di Deauville. Le 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per ascoltare alcuni dei commenti all'intervento di Emanuele Ceccaglia oggi all'assemblea degli industriali e poi commentare anche quello che sta avvenendo al G8. Il primo di tutti è quello di John Elkann, visto il riferimento chiaro che abbiamo fatto ascoltare alla Fiat. La Confindustria rappresenta tutti, non solo i grandi, non sono i grandi di dettare la linea e a livello di contratti, di relazioni industriali, noi dobbiamo rappresentare i piccoli, i medi e anche i grandi. John Elkann al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Ma non è un tema di attualità. Quello che è successo negli ultimi mesi è che abbiamo capito l'importanza di avere un rapporto diretto con chi lavora in Fiat. Brevissimo, non è un tema di attualità l'uscita di Fiat da Confindustria. Laconico. Restano i dubbi di molti osservatori su quello che farà la Fiat da metà giugno in poi e invece altre reazioni. Partiamo da Susanna Camusso, segretaria della CGIL, all'uscita dall'Assemblea degli Industriali. Questo è un paese che è fermo da lungo tempo. Quello che credo che sia un po' difficile da dire, però, che in quei 10 anni ci sia stati solo chi ha portato indietro il paese e chi invece è andato avanti. Io mi sarei aspettata un qualche ragionamento sul fatto che anche una gran parte del mondo delle imprese, per esempio, si è spostata sulle rendite finanziarie e sulla finanza invece che sugli investimenti in attività produttive. Una relazione che non ha il coraggio di fare una scelta sul terreno delle relazioni industriali e si limita a indicare tutte possibili soluzioni che già si sono praticate. In questo direi non c'è nessun segnale positivo. Così il segretario della CGIL Susanna Camusso, al microfono la nostra Alessandra Schepisi. E poi l'altro passaggio importante, quello che riguarda l'impegno degli imprenditori in politica. L'abbiamo fatto ascoltare in più passaggi con quella chiusura: in un momento così importante siamo pronti a batterci per l'Italia anche fuori dalle nostre imprese. Il numero uno dell'ENI è Paolo Scaroni. Al microfono il nostro Vincenzo Miglietta ha anche ricordato che, che già nel passato gli imprenditori sono usciti dalle imprese in altre occasioni per dare il loro apporto alla politica. La relazione si è concentrata più sulle cose che non vanno nel nostro paese piuttosto che su quelle che vanno, naturalmente. Ma comunque Emma ha parlato con quella passione con la quale verrà ricordata come un presidente che ha stimolato tutti a fare meglio. Beh, gli imprenditori sono già scesi fuori dalle imprese in altre occasioni. Abbiamo un presidente del Consiglio imprenditore. Immagino che lei veda che di fronte a situazioni che dovessero peggiorare, gli imprenditori sarebbero pronti anche a rimboccarsi le maniche e a fare la loro parte sul piano politico. E poi a chi gli chiedeva se fosse candidato alla presidenza di Confindustria, Paolo Scaroni ha risposto mai. Un altro commento, quello di Carlo De Benedetti, presidente del gruppo Espresso, al microfono sempre di Vincenzo Miglietta. Emerge un paese fermo, che non cresce, un paese più povero, perché se non si cresce diminuisce il livello di ricchezze, e un paese stanco, che quindi ha voglia di cambiamento. La politica che responsabilità ha in questo frangente? La responsabilità è che certamente una responsabilità complessiva della classe dirigente di un paese, non semplicemente di quella politica. Quella politica, chiaramente avendo un ruolo di leadership politica, ha chiaramente una responsabilità più importante. Ecco. No, la crescita economica è stata fregata da tanti fattori. L'Italia non cresce da 10 anni, quindi non è un fatto semplicemente di breve periodo, è un fatto strutturale del paese, è un problema di troppi vincoli, è un problema di troppe attività che sono ancora soggette a lobby del passato, a corporazioni, è un problema complesso, un problema di capire che la crescita è un must per il paese, non semplicemente un optional. E poi il mondo delle banche, presenti tutti gli esponenti del mondo bancario. Ascoltiamo Corrado Passera, numero uno di Intesa San Paolo, al microfono di Alessandra Scheppisi. Essendo una relazione costruita intorno alla priorità numero uno, che è la crescita e l'occupazione, ed essendo una relazione che chiama tutti insieme, senza polemiche, a contribuire, ciascuno per la sua parte, credito per primo, ma pubblico, imprenditori, a favorire ciò che serve per la crescita, cioè innovazione e internazionalizzazione, secondo me è una relazione molto, molto, molto, molto efficace. Da parte di una persona che da 3 anni si impegna personalmente con grande energia su quella che è la priorità numero uno, che è crescita e occupazione, per fare benessere complessivo della società. No, una relazione da ricordarsi. E poi la politica, partiamo dal governo, il ministro Sacconi sulle richieste arrivate da Emma Marcegaglia. E mi sembra che abbia dato giudizi articolati sulla politica, certamente delusa dall'opposizione, che lo ha detto esplicitamente. Per quanto riguarda il governo e la maggioranza, ha apprezzato molte cose e ne ha chieste molte altre. E poi Sacconi ha detto magari la Marcegaglia si impegnasse in politica. Il ministro Romani, non è vero, ha detto Romani, ministro dello sviluppo economico, che il paese non cresce da 10 anni. L'intervento di Emma Marcegaglia lo abbiamo titolato il decennio perso, visto che è stata una delle frasi più ricorrenti nel suo intervento all'Assemblea degli Industriali. Sentiamo Romani. Non ha detto esattamente così, ha detto che si debba fare di più per la crescita. Noi abbiamo anche, io ho fatto un piccolo elenco di cose che sono state fatte di vario tipo, che hanno consentito al nostro paese di rimanere nell'arco e nell'overo dei paesi stabili da un punto di vista finanziario, quindi al di fuori di ogni logica di speculazione finanziaria. Quindi mi sembra che il Presidente Marcegaglia abbia fatto una relazione importante, la sua ultima relazione, ma il bilancio dei rapporti del Presidente di Confindustria con il Governo mi è sembrato largamente positivo nella sua relazione. Anche questo non è vero, che non cresca da 10 anni, ha avuto un momento di crisi come tanti paesi europei, però il fatto che oggi si abbia i conti a posto, che non ci sia la possibilità che ci siano crisi come quelle che hanno investito altri paesi europei, il fatto che noi come Paese Italia siamo in grado di concorrere alla soluzione di crisi di altri paesi europei, quindi abbiamo che la disponibilità, la forza e la capacità, adesso dobbiamo pensare allo sviluppo. Ci stiamo pensando, stiamo lentamente uscendo dalla crisi, io ho proposto alcune ricette su cui stiamo lavorando. Chiaramente giudizi politici, e l'ultimo che vi facciamo ascoltare è quello del segretario del PD Pierluigi Bersani. Io mi trovo a ripetere quel che dico da 2 anni a questa parte. Noi purtroppo abbiamo perso più di altri e stiamo rimontando meno della metà degli altri. E avendo un debito così grande, i mercati si chiedono: ma un paese che cresce così poco come farà a pagare il suo debito? Questo è il punto che abbiamo davanti, e aver negato questo è stato un guaio enorme, perché abbiamo addormentato ogni capacità di reazione, non abbiamo avuto riforme. Adesso, passati i ballottaggi, si comincerà a vedere la realtà, e quindi siamo di fronte all'ennesima esigenza di manovra. Così il leader del PD, Pierluigi Bersani, al microfono della nostra Alessandra Scheppisi. Dopo il traffico ci occuperemo sempre di economia, chiaramente di imprese, ma anche perché domani escono di nuovo le guide del Sole 24 Ore, le guide pratiche del Sole 24 Ore, e poi ci collegheremo con Duville, dove è in corso appunto il vertice del G8. Intanto ringrazio Francesca Padula del Sole 24 Ore. Francesca, buonasera. Ciao, buon pomeriggio. Domani uscite con la guida lavoro e incentivi, ce ne parli dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Non ho nessuna intenzione di commentare, di dare il mio commento sulle parole del ministro Romani, di Sacconi e del segretario del PD Bersani. Vorrei invece capire da Francesca Padula che cosa sarà, in estrema sintesi, contenuto nella guida domani in edicola con il Sole 24 Ore, lavoro e incentivi. Francesca. Sì. Ecco, l'attualità, i dati del mercato del lavoro ci dicono che quello delle assunzioni incentivate è un tema di grande attualità. per le imprese, un tema riportato di attualità anche dal decreto sviluppo che ha concesso il credito d'imposta ancora per le aziende del sud. Ecco, quello del mondo degli incentivi è un quadro molto frammentato, quindi anche molto complesso. Ce ne sono tanti perché le opportunità non mancano, noi abbiamo cercato proprio di metterle in chiaro, cioè di metterle, di confrontarle e di far capire appunto quelle che sono operative, i requisiti che servono alle imprese che vogliono assumere risparmiando, quindi assumere con gli sgravi contributivi. Ci sono delle nuove misure per i manager che hanno più di 50 anni che devono essere riassorbiti dalle aziende. Quindi abbiamo proprio cercato di fare una guida che possa essere di aiuto per le imprese, uno strumento molto pratico, ecco. Bene, domani in edicola con il Sole 24 Ore, appunto in edicola e acquistabile con il Sole 24 Ore, la guida Lavoro e Incentivi. Grazie a Francesca Padula. Grazie. Torneremo a parlare anche domani di Fincantieri, non ci sono molti sviluppi, vi ho già accennato le dichiarazioni del ministro Romani, ha detto senza un accordo complessivo non si chiude nessuno stabilimento. Torneremo a parlare anche di un ospedale di Roma che ci sta molto a cuore perché cura i bambini disabili su cui non si riescono a trovare i soldi, e continuiamo a rinnovare, l'ospedale si chiama Santa Giulia, a rinnovare l'appello al presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, venisse a parlare in trasmissione, ci spiegasse perché. Domani ci torniamo sul tema. Adesso però colleghiamoci con Alessandro Merli, uno degli inviati del Sole 24 Ore a Deauville, dove è iniziato il vertice del G8 con un Barack Obama che è arrivato pimpante della sua trasferta britannica, dal barbecue e ping pong, ma anche e soprattutto, per essere seri, con la medaglia sul petto dell'eliminazione di Osama Bin Laden. Alessandro Merli, buonasera. Sì, buonasera. Di Grecia, io ho visto alcune dichiarazioni oggi in giornata in cui gli europei, in particolar modo appunto chi rappresentava il commissario Van Rompuy, ha detto non siamo qui al G8 per prendere lezioni sulla Grecia e su come si salva la Grecia. Un po' di nervosismo, avevano timore di essere messi, diciamo, sotto i riflettori? Ah, di fatto il caso Grecia è stato un po' il convitato di pietra di questa riunione, non se ne è parlato in modo ufficiale, nessuno ha citato la parola Grecia. La sessione è dedicata all'esame dell'economia mondiale, però oggi all'ora di pranzo di fatto è esaminato anche i rischi di questa ripresa mondiale che si sta rafforzando, e chiaramente il rischio più grosso in questo momento è la crisi del debito sovrano in Europa e in particolare la vicenda della Grecia. Gli europei non vogliono essere messi sul banco degli accusati, però non c'è dubbio che questa vicenda della Grecia è stata gestita e viene gestita tuttora in modo abbastanza maldestro, lo dimostrano queste dichiarazioni di oggi del premier lussemburghese Jean-Claude Juncker, il cosiddetto Mister Euro, il quale ha detto ma forse il Fondo Monetario non darà la prossima tranche dei prestiti alla Grecia, quindi provocando un piccolo sconquasso. È chiaro che c'è una cacofonia di interpretazioni e di voci su questa questione del debito greco che sicuramente non giova alla sua soluzione e che ha anche un po' irritato francamente gli altri partner a partire dagli Stati Uniti, perché continua ad alimentare delle tensioni sui mercati internazionali delle quali si farebbe francamente a meno. Ecco Alessandro, si è discusso anche di Fondo Monetario Internazionale, chiaramente non la posizione di Dominique Strauss-Kahn, ma di chi dovrà dirigerlo, prendere il posto di Dominique Strauss-Kahn, visto che i paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, sono contrari ad avere un europeo. Ma in realtà non se ne è discusso, anzi se sentite la voce di Nicolas Sarkozy, il presidente francese, che proprio in questo momento sta tenendo una conferenza stampa per spiegare quello che è successo fino adesso, Sarkozy ha detto non ne abbiamo parlato nelle sessioni ufficiali per il semplice motivo che il G8 non è legittimato a prendere una decisione sul direttore del Fondo Monetario, in quanto la decisione verrà presa in modo più ampio. I grandi paesi avanzati sono molto attenti in questo momento a non antagonizzare, a non irritare ulteriormente i BRICS, che sono un po' infastiditi dal fatto che gli europei comunque ancora una volta hanno messo sul tavolo una loro candidatura molto forte, che è quella di Christine Lagarde, che ha buone possibilità di passare con l'appoggio degli Stati Uniti, e quindi il G8 ufficialmente non prende nessuna posizione, anche per evitare uno scontro con i BRICS, i quali BRICS peraltro fino a questo momento hanno espresso una certa contrarietà al fatto che ancora una volta per 60 anni ci sia un'Europa alla guida del Fondo Monetario, però non sono riusciti ad esprimere una candidatura unica. Sì, e poi appunto hanno peccato forse un po' in arroganza nel dire ma comunque deve essere europeo il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, e gli altri gli hanno fatto pesare nuovi rapporti di forza. Alessandro Merli, che cosa, visto che vedo molti messaggi a 349-238-6666, ma cosa servono questi vertici? Ne abbiamo parlato moltissime volte. Che cosa potrebbe uscire di significativo, al di là dei rapporti chiaramente interpersonali tra capi di Stato e di Governo, questo G8? Sappiamo che ormai le grandi decisioni, soprattutto quelle che riguardano l'economia mondiale, vengono prese non più al G8 ma al G20, per la ragione che dicevi tu, che ormai c'è chi dice al G2. C'è chi dice al G2. G2 perché non conviene a nessuno dei due, cioè agli Stati Uniti non conviene confrontarsi da soli con la Cina, hanno provato a farlo e non hanno ottenuto nessun risultato, per cui hanno interesse ad avere dalla loro parte l'Europa, le istituzioni internazionali, eccetera. Alla Cina non conviene perché non è il modo in cui i cinesi lavorano, cioè andare a un confronto diretto con gli Stati Uniti, e quindi francamente questa cosa del G2 mi sembra una bella formula, una buona invenzione, ma non è quella che risponde agli interessi né dell'uno né dell'altro di questi di questo supposto G2. Direi più nel G20. Il risultato più concreto che ci può aspettare da questo G8 verrà probabilmente dalla cena di stasera, in cui si affronterà la questione del Medio Oriente, e quindi gli otto metteranno sul tavolo un pacchetto di aiuti che andrà a integrare quelli già promessi dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale e dalle banche regionali di sviluppo, soprattutto per quei paesi che già si sono avviati alla transizione verso un regime democratico come Egitto e Tunisia, ma in prospettiva anche agli altri paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che intraprendano lo stesso cammino. Quindi diciamo il risultato concreto più probabile di questo vertice è una dimostrazione il più possibile concreta, quindi anche con dei soldi alla mano, che si vuole sostenere questa transizione democratica del Medio Oriente, la cosiddetta primavera araba. Sì, che farà seguito poi a quello che già ha deciso Barack Obama con il famoso piano Marshall per il Medio Oriente. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Deauville, dove appunto si sta tenendo il vertice del G8. Una precisazione, ho detto Santa Giulia, chiaramente l'ospedale di Santa Lucia a Roma, e non Santa Giulia, che è un complesso immobiliare che di Milano, non c'entrano assolutamente niente, un assoluto niente. E chiedo scusa per il refuso. Focus Economia termina qui. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.